Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buona domenica a tutti voi da Gegè Telesforo, qui operativo dal Groovemaster Studio per la puntata numero 211 del nostro Soundcheck, il suono della musica, ovvero la prova del suono di Radio 24. Buona domenica anche al nostro comunicatore Francesco Tromba. Buona domenica a tutti. Hai fatto tardi ieri? Sì, abbastanza. Hai fatto tardi perché? Lo puoi dire, lo puoi confessare tranquillamente. Per guardare la finale del Festival di Sanremo. L'abbiamo vista tutti. E ormai le canzoni del festival, che stanno imperversando da una settimana in tutte le emittenti, stanno entrando a far parte della nostra genetica, del nostro DNA, volendo o no. Quindi tutte queste melodie ormai fanno parte della tua italianità. Eh sì, ormai sono entrate dentro la mia testa. Sono entrate dentro. Sei posseduto, mio caro Francesco Tromba. Sì, posseduto dalle canzoni di Sanremo. Ecco, però c'è qualcosa che ti è piaciuto. Sì, qualcosa, dai, non era male. Era passabile. Va bene, ma noi che vogliamo fare oggi? Celebrare ancora il Festival di Sanremo? No, visto no, che lo stanno facendo tutti. Oggi vedrai che in tutti i programmi televisivi, soprattutto quelli della Rai, si parlerà del festival, si ascolteranno di nuovo le canzoni, verranno fuori i giudizi dei critici e dei giornalisti, insomma, le solite cose all'italiana. Sì, andiamo avanti, basta. Andiamo avanti. Il tema ricorrente, visto che tu sei un comunicatore, sei molto attento ai testi, visto che sei anche responsabile del repertorio in italiano del nostro programma, qual è stato quest'anno il tema ricorrente nei testi? Le canzoni d'amore, come sempre. Cuore e amore, eh? Sì. È il tema ricorrente. Tema però classico. È ricorrente anche nelle canzoni dei nuovi artisti americani. È un tema universale alla fine. È universale, no? L'amore. Allora, visto che è universale, io direi di presentare subito questo singolo appena sfornato da un producer americano di base a Detroit chiamato Brandon Williams. Lo conosci? Sì, l'ho ascoltato un paio di volte. Allora, Brandon Williams nasce come batterista, pianista, polistrumentista, ha un bellissimo studio di registrazione dove ha realizzato un sacco di lavori che poi gli hanno portato fortuna, vincendo premi addirittura importantissimi. È un musicista che ha lavorato col formidabile Jay Dilla, con George Clinton, con Leila Hathaway, Eric Robertson, insomma ne ha fatte di tutti i colori e ha sfornato probabilmente il suo dodicesimo album. Sì, perché proprio il titolo di quest'album è appunto il 12, però a numero romano, quindi 12 in inglese. Hai visto che non ti sfugge nulla? Sì. Sì. In questo album poi c'è la partecipazione di grandi star e anche dei nuovi talenti. Per esempio, io non conoscevo questa vocalist che si chiama Anesha. Ti piace come nome? Non tantissimo. Potresti chiamare tua figlia. Pensa a tua figlia Anesha Tromba. Non mi piace. Non ti piace, va bene. Andiamo su Giovanna, magari. Sì, italiano. Anesha è la vocalist protagonista di questa composizione di Brandon Williams che celebra l'amore e infatti come si intitola? I love you. E in questo brano c'è anche la partecipazione del formidabile sassofonista di nuova generazione Casey Benjamin, che lavora sempre con Robert Glasper con i suoi Experiment, che però qui sfoga tutta la sua voglia di musica attraverso il vocoder. Sai di cosa stiamo parlando? Sì, l'ho ascoltato, cioè comunque basta ascoltare un po' di musica elettronica e sai che cos'è il vocoder. Il vocoder, insomma, è la sintesi della voce attraverso il microfono e il tutto viene filtrato da una tastiera, per cui chi utilizza il vocoder può emettere anche accordi. Sì. con la sua voce che viene sintetizzata, quindi con vari effetti e via dicendo. Utilizzato questo strumento nella musica elettronica, ma anche Herbie Hancock l'ha utilizzato più volte, soprattutto negli anni 70, Joe Zawinul l'ha utilizzato tantissimo e oggi Casey Benjamin è uno specialista di questo aggeggio, che qui viene usato proprio in I Love You con Brandon Williams e Anesha da questo nuovo album che ha già portato a casa non un premio ma insomma una nota di merito attraverso il sito di riferimento Soul Tracks. Sì, tra l'altro è uno degli album più venduti in assoluto nel periodo natalizio. Eccolo qui, Brandon Williams, Anesha e Casey Benjamin in I Love You per la prima volta al soundcheck di Radio 24. Sarà pure un bravo producer discografico, bravissimo batterista, musicista, Brandon Williams, che ha realizzato nel suo studio di Detroit questo nuovo album che probabilmente è il 12° della sua carriera, perché si intitola 12, però poteva sforzarsi un po' di più per il titolo di questa canzone. Sì, I Love You è, è troppo banale. Infatti se andiamo a cliccare, che ne so, su iTunes o anche su YouTube, questo titolo verranno fuori 6-7 mila canzoni come minimo. Sì, non è il massimo per farsi trovare subito. Comunque l'album non è male, ci sono un sacco di belle partecipazioni e quindi un album divertente e contemporaneo ma anche soul vicino alla tradizione. Sì, è una via di mezzo fra la tradizione e l'innovazione. Ecco, che è quello che fa invece un veterano del genere come Phil Perry, musicista, cantante non molto conosciuto da noi, anzi forse quasi sconosciuto, perché era il vocalist fra il 71 e il 75 di una band soul chiamata The Monclairs. Sì, però comunque poi gli portavano i piumini quando si presentavano sul palco, scusate la battutaccia, però Phil Perry, anche lui segnalato dal sito Soul Tracks, si è divertito a realizzare questo album con nuove sonorità, ma sempre con il piglio del veterano della soul music. Sì, tra l'altro il suo ultimo disco, quello del 2013, è ancora in alto in classifica, nelle classifiche dei Billboard, la rivista americana. È considerato uno dei migliori dal punto di vista proprio vocale. Ma tu lo sentirai, ha una voce giovanissima ancora, eh? Nonostante non sia del proprio 52, quindi ha quasi, ha 10 anni più di me. 60. Pensa a te, quindi ce la possiamo fare anche noi. Sì, se sì. Ce la fa Phil Perry. Phil Perry con A Better Man, che è anche il titolo del nuovo album, quindi un uomo migliore. Perché è diventato un uomo migliore Phil Perry? Non lo so, magari ha avuto un'esperienza che l'ha reso un uomo, migliore. Phil Perry al soundcheck di Radio 24. And oh, it's the way I feel. My love for you is real. Sound check. Il suono della musica. Baby, baby, baby, mesmerized. la vocalità potentissima di Faith Evans, che potremmo definire una brava ragazza, una ragazza casa e chiesa, nata nel 73 in Florida, poi cresciuta nel New Jersey, e nel 1993 si sposta a Los Angeles in un momento di grande fermento musicale per la scena rap e hip hop, ed è lì che ha iniziato a muovere i primi passi vocalmente parlando, ma anche non solo vocalmente, fisicamente. È lì che ha incontrato anche quello che poi sarebbe diventato di lì a poco suo marito, un omone d'altri tempi, potremmo definirlo, Notorious B.I.G. Sì, appunto anche il suo soprannome era dovuto al fatto che era abbastanza grosso fisicamente. Un colosso, sì. Certo, non un fotomodello. No, però non è necessario essere dei fotomodelli. Non per è necessario essere belli, no? Ecco, era un tipo Notorious? Sicuramente un tipone, sì. Era un tipone. Fatto sta che i due si sposano, hanno un figlio, però a casa le cose non andavano benissimo. Sì, anche perché lui, diciamo, comunque continuava a farsela anche con altre ragazze, a quanto pare. Sì, non solo sì, per sì. quello, ma poi la maggior parte dei rapper e dei protagonisti della scena hip hop avevano legami continui anche con la malavita locale. Esatto, e infatti con le gang, no? Anche la fine di Notorious B.I.G. magari è dovuta a questi rapporti non perché proprio alla fine che è successo a Notorious? È stato sparato per strada. E quindi la povera Faith Evans si è ritrovata con un figlio da sola, si è risposata, ma e sai chi ha presentato il nuovo marito a Faith Evans? No, non lo so. Missy Elliott, anche lei una rapper di riferimento, bella agguerrita anche lei, eh? Sì, sì. Dei bei tipini, lei, Faith Evans, Mary J. Blige. Bei personaggi. Poi Faith Evans si è rifugiata anche nell'uso di sostanze stupefacenti, vedi che uso, come parlo quasi da procuratore della Repubblica. Sì, potresti fare un insomma, processo. Insomma, si è fatta di droghe all'infinito e fu arrestata, credo nel 2003-2004, perché la trovarono in macchina con marijuana, cocaina. Sì, insieme appunto al nuovo marito. Al nuovo marito, anche lui è un producer di musica rap. Di pop. Musica rap. Poi però ha abbandonato anche il nuovo marito ed è stata arrestata una seconda volta per possesso, guida in stato di ubriachezza, anche lei. Bene, una ragazza a modo. Case sì, chiesa, morigerata, però resta una protagonista della scena attuale dell'R&B e con vari album al suo attivo e nel 2014, quindi pochi mesi fa, è stato pubblicato questo album intitolato Incomparable, l'incomparabile Faith Evans, che adesso ascoltiamo in attesa che venga pubblicato anche un nuovo album che si intitolerà The King and I. Bene, allora Faith Evans qui con la partecipazione di Problem. Che Problem? Pensa che Problem. Faith Evans con Problem, il brano si intitola Good Time qui al Soundcheck di Radio 24. Hey, oh yeah. La la la la da da da da da da da da da da. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Come on. Di nuovo in contatto con la prova del suono di Radio 24, dopo l'informazione, un successo del momento intitolato Uptown Funk, che ci riporta indietro al funk e alla soul music dei primi anni Ottanta, con protagonista la voce di Bruno Mars, anche se poi questo singolo è firmato da un musicista che non è afroamericano, ma bianco e inglese, perlomeno è nato a Londra, anche se poi musicalmente si è formato a New York, il chitarrista, producer discografico Mark Ronson. Non male questo ragazzo. Sì, ho letto che ha collaborato anche con Stevie Wonder recentemente. Beh, Mark Ronson ne ha fatte di tutti i colori, ha prodotto un sacco di album importanti e infatti credo che sia anche diventato un bel po' ricco questo ragazzo. Sì, ha prodotto i primi album di Amy Winehouse e di Adele, che hanno anche vinto dei Grammy Awards. E poi geneticamente sa come amministrare i suoi soldini. Sì, venendo da una famiglia ebraica, ecco, sicuramente. Lo sa sicuramente, sa ce come... l'hanno nel DNA, no? Sì, sì. Mark Ronson e Bruno Mars con Uptown Funk, successo del momento qui al Soundcheck di Radio 24. E prima di passare alla bellissima voce di Dionne Ferris, altra vocalist americana che ha lavorato nel circuito jazz, pop, R&B, un po' sempre le solite cose, no? Qui in duetto con il chitarrista Charlie Hunter, io direi di annunciare qualche concerto per la prossima settimana. C'è ancora musica dopo il Festival di Sanremo in Italia dal vivo? Sì, soprattutto jazz. Soprattutto jazz. Ma sul serio, non ci sono concerti pop? Sì, ci sono anche dei concerti pop. Vabbè, vediamo che cosa hai scelto per i nostri amici. Allora, se questa sera riuscite, andate all'Alcatraz di Milano, che ci sarà un gruppo inglese, gli Alt J, sono molto bravi, ve li consiglio vivamente. Altrimenti lunedì 16, domani, ci sarà Stefano Bollani, sempre a Milano, al Teatro degli Arcimboldi. Sempre Stefano Bollani sarà anche sabato 21 al Teatro Kreberg di Bergamo. Solo piano? Penso di sì, credo di sì, non ho approfondito. Martedì 17 invece al Teatro Toniolo di Venezia ci sarà Paolo Fresu. Sempre il 17 i Black Keys saranno al Mediolanum Forum di Assago, la band americana dei fratelli. Ecco, noi ripetiamo che annunciamo i concerti, però non ci assumiamo responsabilità. Sì, possono sempre essere annullati magari all'ultimo annullati. Momento. Quindi prima succedere. Di recarvi nelle location presentate dal nostro Francesco Tromba per seguire i concerti che vi stiamo presentando, conviene fare una telefonata o verificare poi via internet che effettivamente il concerto venga realizzato. Allora, ascoltiamo Dionne Ferris, ci sono altri concerti, vero? Sì, sì, allora, li diciamo dopo. Vediamo dopo. Dionne Ferris con Charlie Hunter, un bellissimo duetto, il brano si intitola Déjà Vu, qui al Soundcheck di Radio 24. This is insane. All you did was say hello, speak my name, fill in your love like a love I used to know long ago. Soundcheck, il suono della musica. La versione contemporanea del DJ Carlson di un vecchio successo della pianista, cantante, bravissima, grande talento Alicia Keys, intitolato You Don't Know My Name, qui alla prova del suono di Radio 24. E tra l'altro stiamo per chiudere la prima parte, poi ci ritroveremo alle 19:15 per il segmento più jazz con la partecipazione di un bravissimo pianista della nuova generazione, ovvero Fabio Giachino, che ci presenterà, mio caro Francesco, in anteprima il nuovo album intitolato Blazar. Hai già sentito qualcosa in anteprima? Molto bello, molto interessante, ma lui è un pianista giovane e bravissimo. Questo ragazzo che arriva da Torino e comunque gli faremo raccontare la sua storia e questa nuova esperienza in studio di registrazione. Ma tutto questo nella seconda parte del Soundcheck a partire dalle 19:15, sempre qui su questi schermi su Radio 24. Allora, ci sono altri concerti? Sì, visto che parliamo di jazz, vi consiglio qualche concerto da vedere in settimana. Vediamo. Il 18 ci sarà Francesco Berzatti al Panic Jazz Club di Marostica. Da non perdere. E venerdì 20 Chris Potter al Ferrara Jazz Club. È il momento dei sassofonisti con il loro tenore. Eh sì, sono sbarcati in Italia un sacco di sassofonisti. Chris Potter, quando lo ascolti, ecco, sembra di ascoltare un alieno. Sì, è la perfezione assoluta, fortissimo. Un altro sassofonista, Ravi Coltrane, sempre il 20, sarà al Cineteatro ABC di Catania. Vedi? Sabato 21 Gino Paoli insieme a Danilo Lorea saranno alla Suoneria a Settimo Torinese. Per chiudere sempre il 20 Chiara Civello al Palazzo d'Auria di Lucera in provincia di Foggia. Questi concerti presentati dal nostro Francesco Tromba. Allora, stiamo per chiudere, ci risentiamo, lo ripeto, alle 19:15 qui su Radio 24 con la partecipazione del bravissimo pianista Fabio Giacchino e chiudiamo in bellezza. Mio caro Francesco, ti riporto indietro negli anni 70. Sono contento. Che cosa e tu in che sentire? Anno sei nato? Nell'87. Che disgrazia, nell'87, cioè quando io facevo doc tu nascevi. Sì. Quindi il programma non... No, è solo quello che ho trovato su YouTube. Su YouTube, pensa te. Vabbè, allora chiudiamo con Charles Wright and the Watts 103rd Street Rhythm Band. Solo a pronunciarlo il nome di questa band ci vogliono 30 secondi. Però pensa che nel 1970 questo brano intitolato Express Yourself andò non solo primo in classifica, ma diventò in poco tempo uno dei brani importanti per il Black Power. Addirittura. Questa è la versione remix, poi ti faccio ascoltare anche quella originale. Bene, ci sentiamo più tardi. A tutti voi buon pomeriggio da Giorgio Telesforo e da Francesco Tromba. Check 1 2, mic check 1 2, mic microphone check, check 1 2. Sound check, il suono della musica di DJ Telesforo. Eccoci di nuovo in contatto dal Groovemaster Studio per la seconda parte del Soundcheck di Radio 24. Buonasera a tutti voi da GG Telesforo e buonasera al mio ospite. Lo abbiamo annunciato, finalmente si è arrivato qui nel Groovemaster Studio. Buonasera a Fabio Giacchino. Buonasera a tutti. Noi dovevamo incontrarci lo scorso anno per presentare Jumble Up, che è l'album che ha anticipato poi questa seconda produzione che oggi racconteremo agli amici di Radio 24 in anteprima sulla pubblicazione, perché l'album lo troveremo nei negozi e quindi sarà presente anche il download su iTunes a partire da fine mese, ma oggi per l'amicizia anticipiamo questa pubblicazione e quindi complimenti anche per questo secondo capitolo con il tuo trio, caro Fabio, album intitolato Blazar. Che cosa significa Blazar? Esatto, beh, innanzitutto grazie. Fantastico. Allora, Blazar direttamente dall'inglese vuol dire Blazing Quasi Stellar Object. Io sono appassionato abbastanza di cosmologia, astronomia, cosmo, da dove nasce l'universo, insomma tutte queste cose molto utili nel quotidiano, diciamo. Le trovo molto interessanti e un giorno in una lettura stavo leggendo alcune cose riguardo i vari buchi neri, esplosioni, cose varie, e mi sono imbattuto in questo blazar che non è nient'altro che una sorgente energetica molto potente che di solito è associata ad un buco nero o comunque ad una situazione di singolarità quantistica, no? Senza addentrarci troppo in quello che significa, è una cosa molto potente a livello dell'universo, a livello della galassia, no? E il tutto ha stimolato un'irruenza pianistica anche in questa produzione discografica. Sì, spero non fuori luogo, ma spero abbastanza appropriata. Comunque sì, insomma, mi piaceva l'idea, soprattutto a livello di gruppo, di questa sorgente, di questa cosa che arriva molto forte, che poi in realtà è quello che io cerco di fare con la mia formazione e con quello che scrivo, perché poi al di là che piaccia o meno, che venga meglio o peggio, io, cioè, le note non riesco a centellinarle troppo, no? Perciò insomma arriva un pochettino sempre questa cosa nella musica che suono, nei concerti, perciò insomma spero che sia una cosa buona. Quindi dicevamo, il percorso è iniziato con la pubblicazione di Jumble Up, con, esatto, il tuo trio. Vogliamo ricordare i musicisti che suonano con te: quindi al contrabbasso c'è Davide Liberti e poi il bravissimo Ruben Bellavia alla batteria. Qual è stata l'evoluzione fra Jumble Up e Blazar? Allora, diciamo che appunto Blazar è in qualche modo un po' il seguito. Devo dire che in questo album, che è arrivato inaspettatamente molto presto, perché a distanza solo di un anno, è stata una cosa che è stata voluta fortemente dalla produzione di Abit, perché io... Che è la casa discografica, esatto, che distribuisce l'album. Esatto, perché io insomma avevo alcune cose ancora un po' in forze, invece insomma hanno voluto chiuderlo entro la fine dell'anno per poi poterlo presentare adesso. E diciamo che c'è, secondo me, la differenza sostanziale è che c'è maggior ariosità all'interno del disco, credo. Jumble Up era un disco dove ci sono stati molti brani e tutti molto compressi, complessi, anche articolati, eccetera. In Blazar ho scritto qualcosa di meno, però ho dato un po' più di respiro riguardo a quella che è l'esecuzione, la possibilità di interpretare e improvvisare sui brani. Ecco, raccontare la musica non è facilissimo, quindi credo che sia il caso di presentare subito il suono di questo nuovo album per il bravissimo Fabio Giacchino. Poi racconteremo anche un po' la tua storia di giovane musicista, da dove arrivi, perché tu hai iniziato con l'organo, poi sei passato, esatto, al pianoforte. Ti sei diplomato in organo? Sì, certo. Allora, naturalmente stiamo parlando di jazz, stiamo parlando di un approccio contemporaneo al jazz, ma quanto c'è anche in questa produzione di tradizione, per esempio? C'è qualcosa? Beh, assolutamente. Diciamo che per quanto mi piacciono le cose nuove, comunque quello che secondo me è fondamentale è comunque la tradizione. Io arrivo dalla tradizione, nel senso che comunque i miei musicisti di riferimento sono pianisti o musicisti molto tradizionali, da Airlines a, voglio dire, Herbie Hancock, il primo, comunque, piuttosto che Bill Evans, Errol Garner, Fats Waller, cioè tutti quelli che comunque hanno costruito la storia del jazz e l'hanno, insomma, senza i quali non si sarebbe potuto arrivare. Sì, perché ho notato anche che i musicisti contemporanei più giovani fanno poi un percorso a ritroso per andare a scoprire le origini e capire che quello che fa Herbie Hancock, o che faceva Herbie Hancock, o che fa Brad Mehldau adesso, comunque viene dall'evoluzione, da Art, certo, Tatum, Jelly Roll Morton, Oscar Peterson e tutti. Assolutamente, no, certo. Allora, stiamo parlando di Blazar, il nuovo album che verrà pubblicato da A-Beat fra pochissimo, fra un paio di settimane, qui in Italia. Il trio di Fabio Giacchino, con Davide Liberti al contrabbasso, Ruben Bellavia alla batteria. Apriamo proprio con la traccia che dà il titolo a questa bellissima produzione, Fabio Giacchino. Il brano si intitola Blazar, qui al Soundcheck di Radio 24. Suono del trio di Fabio Giacchino, ospite del Soundcheck Radio 24, nuovo album per lui, per A-Beat, intitolato Blazar. Questo è proprio il brano che dà il titolo a questa bella produzione, che ci viene presentata nelle note di copertina dal nostro amico Fabrizio Bosso. E leggo proprio: conosciuto Fabio qualche anno fa suonando come ospite del quartetto Jazz Accident, e fin da subito ho capito che stava nascendo un grande talento. Beh, una bella cosa detta da un giovane veterano del jazz italiano. Credo che i progressi che ha fatto in questi ultimi anni siano veramente notevoli, lo dimostra questo riuscitissimo lavoro Blazar, un disco che strizza l'occhio al jazz newyorkese. Che significa? Bella domanda. Beh, dovremmo chiederlo a Fabrizio. Sì, diciamo. Però certamente di sì. La scena newyorkese la segui. Beh, direi di sì. New York è sempre stata un po' la mecca per tutti per i musicisti di tutto il mondo, e inevitabilmente anche per me. Perciò non si può non comunque seguire quali sono le novità, o comunque chi sono i musicisti forti della vecchia generazione, ma anche di quella attuale, che stanno in qualche modo portando avanti il jazz e costruendo sempre cose nuove e interessanti. Eh sì, succedono cose nuove, e a volte capita di entrare in piccoli club a New York e di trovarsi delle stelle del jazz contemporaneo come Brad Mehldau al pianoforte, o magari accompagnato da Mark Guiliana alla batteria. Infatti è nato proprio così il progetto Meliana, che è arrivato anche in Italia l'anno scorso con una serie di appuntamenti dal vivo. Hai seguito questo album di Brad Mehldau? Sì, l'album ce l'ho, non sono riuscito a vederli dal vivo purtroppo, però l'album ce l'ho e mi è piaciuto molto, è una cosa molto particolare. Sì, un grande pianista che si dedica anche all'utilizzo di elettronica, certo, strumenti vintage, ma anche sintetizzatori, mini Moog, e quindi il duo Mark Guiliana e Brad Mehldau qui al Soundcheck con Sassy Acid Sassafras, uno dei brani più facili forse dell'album, un turnaround molto coinvolgente da Taming the Dragon qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. I want your love, but I don't want to borrow, to have it today and to give back tomorrow. For my love is your love, there's no love for nobody else. For my love is your love, there's no love for nobody else. Di nuovo collegati con il Groovemaster Studio dopo l'informazione di Radio 24, nostro ospite Fabio Giachino per presentare Blasari, il suo nuovo album. Lo troverete nei negozi di dischi, ma anche il download su iTunes sarà disponibile a partire forse fra un paio di settimane, no? Sì, certo. Allora, quindi questa è un'anteprima che tu ci stai regalando. Il brano che abbiamo ascoltato, un classico del jazz intitolato Love Me or Leave Me, nella versione di questo pianista giapponese che si chiama Fumio Yasuda, e la voce bellissima di Theo Blackman, cantante tedesco ma da anni residente a New York, dove spinge sull'acceleratore per quanto riguarda la vocalità, ha una vocalità contemporanea, ma in questo album intitolato Schumann's Farewell Bar Songs i due amici si divertono a celebrare composizioni del passato in chiave proprio da piano bar, tant'è vero che Schumann's è proprio un famoso bar dove vengono realizzati degli ottimi cocktail in Germania. E infatti è molto carino che in sottofondo per tutta la durata della produzione si sentono rumori di bicchieri, customers che parlano, si raccontano, e non ci sono applausi, quindi non è un concerto dal vivo, ma proprio per creare quell'atmosfera tipica del piano bar, ma di grande classe, perché stiamo parlando di jazz, stiamo parlando di due eccellenti musicisti contemporanei come Fumio Yasuda e Theo Blackman. Schumann's Farewell Bar Songs per Winter e Winter qui al Soundcheck di Radio 24. Parlavamo quindi della tradizione, due musicisti contemporanei che si rifanno proprio al suono anche del passato, e anche tu nel nuovo disco Blasar hai celebrato un po' quel periodo storico. Sì, in maniera molto piccola, perché comunque lo spazio è sempre quello che è, però diciamo che sì, ho voluto comunque reinterpretare un brano, uno standard celebre della tradizione, che è In the Wee Small Hours of the Morning. In realtà l'arrangiamento l'abbiamo intitolato In the Wee Small Reggae of the Morning, perché appunto l'arrangiamento perché l'andazzo ritmico è quello, non è che ci sia, esatto, perché tu hai anche la passione per il reggae Bob Marley. Beh, no? Direi di sì, cioè comunque la bella musica rimane sempre bella. Bravo. È inevitabile. Allora, intanto io direi di far partire il brano perché c'è una introduzione di pianoforte, no? Sì, esatto. Bella. Sì, c'è un intro di pianoforte solista, dopodiché c'è un piccolo vamp che ho scritto, niente di complicato, e poi ad un certo punto comincia la melodia e i vari soli su questo appunto ritmica reggae o comunque tendente. Mi sembra che tu sia stato comunque rispettoso della composizione originale anche da un punto di vista armonico, forse qualche sostituzione c'è. Sì, però ho aggiunto, diciamo, a me insomma piace comunque molto armonizzare i temi eccetera, perciò ho aggiunto qualche piccolo accordo, qualche piccolo passaggio, però diciamo che la composizione rimane quella che è. Allora ascoltiamo Fabio Giacchino qui con la sua versione reggae di In the Wee Small Hours of the Morning al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Il nostro Fabio Giacchino che arriva direttamente. Arrivi da Alba tu, no? Da Alba, vivo a Torino da 5-6 anni adesso, ma sì, sono di Alba. Ecco, tu mi hai portato il disco nuovo in anteprima. Peccato tu non mi abbia portato altre prelibatezze che arrivano direttamente da Alba. Prossima volta. La prossima volta, mi raccomando, il tartufo è una bottiglia di Barolo, no? Assolutamente. Perché ci vuole. No, ma tu ci vai a Alba ogni tanto, sì? Sì, beh, io e i miei genitori lì assolutamente, poi ho tutti i miei amici, insomma, di adolescenza, eccetera, perciò sì, poco, non sempre perché il tempo è sempre quello che è, però sì, certo, quando posso una scappata la faccio volentieri. Senti, quanti anni hai adesso? Io adesso ne ho 28. Ne hai 28? Quali sono i musicisti, gli altri pianisti italiani della tua generazione che segui con attenzione? Beh, ce ne sono veramente tanti. Allora, ce ne sono sicuramente di più giovani di me, perciò poco più di 20 anni. Ad esempio, vabbè, tra i più bravi e quelli che conosco c'è sicuramente Alessandro Lanzoni. Bravissimo. Enrico Zanisi, Sebi Burgio anche, ad esempio, piuttosto che, non lo so, beh, c'è Domenico Sanna che è assolutamente un pianista fantastico, ha qualche anno in più ma è micidiale, piuttosto che loro fondamentalmente, loro sono un po' quelli di riferimento. Di riferimento. Poi che pianisti invece segui fra gli italiani, di quelli che hanno in qualche modo creato l'evoluzione pianistica del nostro paese per il jazz? Beh, vabbè, io sono molto legato comunque a Franco D'Andrea come pianista, perché per quanto si parla della prima generazione, diciamo, di jazzisti italiani. Di quelli prima di me, sicuramente Antonio Faraò e Dado Moroni sono un po' quelli che sono i miei modelli di riferimento, anche perché ho avuto la possibilità di studiarci insieme ad entrambi, perciò a loro sono molto legato. Sicuramente anche, non so, musicisti come Paolo Birro, Riccardo Zegna, che magari sono un po' meno noti al grande pubblico, ma sono dei musicisti incredibili, meritano di essere seguiti. Meritano attenzione, eh sì, quindi il pianismo italiano ha raggiunto livelli assolutamente importanti, non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo, e quindi non posso che augurarti di fare lo stesso tipo di carriera, Fabio. E oggi abbiamo presentato alcune tracce tratte da questo nuovo album che sarà pubblicato fra pochissimo, quindi questa è un'anteprima di Blazar con il tuo trio, Ruben Bellavia alla batteria e Davide Liberti al contrabbasso, quindi salutami anche i ragazzi. Però io vorrei chiederti una cosa: come vedi non ho un pianoforte a coda, ma il mio verticale è accordato, l'ho fatto accordare da pochissimo, non so se ci vuoi suonare qualcosa, mi farebbe molto piacere. Beh, certo, molto volentieri. Che cosa fai? Allora, beh, visto che nel disco nuovo in anteprima c'è anche l'ultimo brano, è una rielaborazione di un famoso brano di Coltrane che è Countdown, che non è nient'altro che la rielaborazione di uno standard famoso che è Tune Up, vi faccio ascoltare non questo, ma vi faccio sentire una versione un po' rielaborata di Giant Steps, che è un altro brano di John Coltrane. Ecco, tanto per complicarci la vita, no, perché Giant Steps è un brano sul quale hanno studiato tutti i pianisti e tutti i musicisti. Intanto ti puoi accomodare al pianoforte. Quindi dal vivo qui dal Groove Master Studio, Fabio, divertiti e facci sentire che cosa hai combinato con Giant Steps di John Coltrane. Fabio Giacchino qui live al soundcheck. Giant Steps di John Coltrane dal vivo qui al Groove Master Studio nella versione di Fabio Giachino con il mio pianoforte. Sono onorato. Sai che quel pianoforte lo hanno suonato un sacco di colleghi importanti? Posso immaginarlo, guarda. Allora, Fabio, Blazar sarà pubblicato da Ibit fra un paio di settimane, quindi fai i miei complimenti anche a Davide Liberti al contrabbasso e Ruben Bellavia alla batteria. Bellissima produzione, suona molto bene, le composizioni sono interessanti, piglio contemporaneo, ma lo abbiamo detto, c'è rispetto per la tradizione. E quando potremo ammirare dal vivo questa bellissima formazione? Allora, i prossimi appuntamenti, il primo di tutti è il 24 e 25 di febbraio, che non è in Italia, è a Bruxelles, e sarà un concerto in onore del gemellaggio che c'è, insomma, tra Torino e la partnership con Berlino, insomma, l'Expo di Milano, eccetera, e lì faremo una piccola presentazione in anteprima. Dopodiché a marzo inizierà il tour di presentazione, diciamo, perciò la data zero sarà il 19 marzo al Jazz Club di Torino. Dopodiché, tra gli altri appuntamenti, abbiamo il 22 marzo al Festival Jazz di Bergamo. Per tutti gli altri appuntamenti, anche più piccoli eccetera, vi rimando al mio sito, che è www.fabiogiachino.com, oppure alla mia pagina Facebook, dove aggiorno tutto il calendario. E poi sicuramente ci vedremo in giro la prossima estate, perché sarà il momento dei grandi festival, grandi e piccoli festival italiani e internazionali. Grazie a Fabio Giachino per la partecipazione. Vi lascio con un'ultima composizione tratta da Blazar, bellissima, si intitola Over and Over, e noi ci risentiamo la prossima settimana, il prossimo weekend, operativi come sempre dalle 19:15 il sabato, poi il doppio appuntamento della domenica dalle 15:30, la seconda parte, quella più jazz, dalle 19:15. Fabio, che dirti, grazie e in bocca al lupo per tutto. Crepi il lupo e buona giornata a tutti. Eh sì, buona serata, buona settimana e buona musica da Gigi Telesforo.